A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Ci troviamo qui perché siamo indignati nel vedere non tanto chi amministra in questo frangente, ma la nostra città accomunata a fenomeni di infiltrazione presenti in altre città. Le classiche tecniche della mafia, insinuare per delegittimare. A Vimercate e nei nostri territori gli amministratori pavidi non ci sono. Ricca Brianza ogni volta protesta. Al sospetto di presenze mafiose sul proprio territorio ogni volta si indigna e più che chiedere chiarimenti su ombre e inchieste continua a scendere anche in piazza, come è stato a Vimercate, contro chi quelle inchieste le racconta e quelle ombre le descrive. Eppure, come se non bastassero le indagini, gli arresti anche eccellenti, gli scandali, pure il Nord vanta il suo gruppetto di comuni sciolti per mafia. Ora anche la Lombardia ha il suo, come ce l'ha da anni il Piemonte, come ne conta da tempo la Liguria. Negli ultimi due anni sono state 4 su un totale di 42 le amministrazioni commissariate al di sopra del Po. 2 in Piemonte, Leini e Riverolo Canavese, 1 nella Riviera dei Fiori, Ventimiglia, e l'ultimo in provincia di Milano, Sedriano, il primo della regione, dove però altre amministrazioni in passato erano già cadute, sfiduciate sì dai partiti, ma dopo inchieste giudiziarie che parlavano di infiltrazioni e collusioni, dopo scenari di appalti opachi e cronache di intimidazioni fin troppo esplicite. Così era stato per Buccinasco, così era successo a Desio, così si era ripetuto per Trezzano. E c'è chi vede questo rischio anche per altre giunte nella Lombardia, provincia di 'Ndrangheta, dove sono state riconosciute almeno 18 locali, cioè articolazioni della malavita calabrese. Una regione questa dove, nonostante la crisi, vanno deserte, come sentiremo più avanti, gare d'appalto per centinaia di migliaia di euro. Forse per colpa di intimidazioni? Una regione, la Lombardia, dove il numero degli indagati per associazione mafiosa è passato da 97 a 429 dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011, ultimo dato della relazione della Direzione Nazionale Antimafia. Una regione dove un ex assessore si può vantare di essere stato eletto senza aver dovuto ricorrere al sostegno della 'Ndrangheta, e un altro, quel sostegno, stando alle accuse, se l'era comprato a suon di migliaia di euro o con scambi di favori, come è stato contestato all'ormai ex sindaco di Sedriano Alfredo Celeste, che fino alla fine a dimettersi non ci ha pensato proprio. L'accusa penale che ci è stata levata era assurda, e lo è. Del resto il commissariamento procede da quello. Il prefetto ha fatto la proposta di scioglimento perché c'era il rischio potenziale. È un'attività di tipo anche preventivo che spesso si fa. Ci mancherebbe. Allora tutti i comuni, nel momento in cui c'è presumibilmente un rischio, devono essere sciolti. Hanno gli elementi che ritengono che esisteva questa possibilità. Questo, secondo me, non hanno nulla se non delle pure congetture. E questo io lo farò valere in sede di ricorsi vari, fra cui anche l'azione penale per eventualmente diffamazione o calunnia che la relazione potrà portare. Quindi, oltre al ricorso al TAR che lei ha già annunciato, preannuncia diciamo un contrattacco giudiziario. La vicenda Costantino è una vicenda che comunque su cui noi non potevamo far nulla. Obbligati noi a fare entrare in giunta l'esponente politico della Democrazia Cristiana per le autonomie. Ovviamente, da questo punto di vista, siamo stati sfortunati, tenendo presente che comunque il suo presunto... questo presunto 'ndranghetista deve essere verificato come tale. Quindi, secondo lei, quello che lei dice, eventualmente una responsabilità ce l'ha chi ha fatto in modo che entrasse? Questo sicuramente, perché non hanno fatto le verifiche opportune, però era anche impossibile farle. È una persona storicamente residente a Sediano da tanto. Sua figlia è una brava ragazza, lo è ancora, perché non ho cambiato idea, si presenta bene. L'accusa che viene contestata è che ci fosse, può essere stata una sorta, diciamo così, di scambio di favori, no? Certo, adesso, però è assurda, è reale, è assurda, perché dopo che mi dico che non prendo tangenti, che sono onesto, che non conosco la natura di Costantino in quanto come tale, come nella sua presunta 'ndranghetisticità, dopodiché dicono che comunque c'è questo scambio, ma sotto i 15.000 abitanti non c'è la preferenza. Vuol dire quindi che il riferimento per capire quanti voti mi ha portato, no? e la sua figlia che ha preso 31 voti, io sono stato eletto per 2800 voti. C'è una conversazione in cui lei però dice a Costantino: tu sei il mio idolo. Lei estrapola il PM Dolci per chiedermi la sorveglianza, questa frase è una presa per i fondelli. Se noi sentiamo e leggiamo tutta l'intercettazione, vedrà che io lo prendo in giro per dire: sei il mio modello, sei il mio ideale. Che effetto fa essere stato il sindaco del primo comune lombardo sciolto per mafia? Lei tra nei vari atti giudiziari è stato anche definito come uno dei ausiliatori dell''ndrangheta. Sì, questo è per appoggiare la richiesta di sorveglianza speciale, che è una vergogna in sé come richiesta. È una grande ingiustizia, ancora più ingigantita da questa primizia, che colpisce anche un paese. Io sono addoloratissimo per il mio paese, che non merita questo. Lette le contestazioni della commissione d'accesso, riscalda la sua voce di rabbia il suo ex vice Achille Pivetta, un ex leghista nel primo comune sciolto per mafia in Lombardia, che però nel dilagare dei clan una responsabilità la attribuisce pure a chi nega la loro esistenza. Io ho letto questa relazione, veramente, guarda, io rimango veramente incredulo e allibito. Mi si viene a dire che non è stato richiesto il certificato antimafia sulla gara del verde. Ma scusi, il certificato antimafia lo devo richiedere io? Cioè, l'assessore ai lavori pubblici deve richiedere il certificato antimafia? Saranno gli uffici predisposti a chiedere quella tipologia di certificati? Cioè, quindi lei dice che eventualmente c'erano problemi nella parte amministrativa più che in quella politica? Dal primo giorno che ci siamo insediati l'ho sempre sostenuto. Se è per quello che c'è scritto lì che gli atti amministrativi erano sbagliati, secondo me... cioè, non dico tre quarti dei responsabili e del segretario generale comunque vanno sostituiti. A proposito invece proprio strettamente della vicenda che comunque aveva coinvolto anche l'ex sindaco che era stato arrestato, sì, e poi accusato anche agli arresti domiciliari, accusato anche, diciamo, lui come dei familiari, un parente e un padre del marito di due consiglieri comunali, sì, vicini a persone considerati uomini di spicco dei clan calabresi dell''ndrangheta al nord. Sì, guarda, io Costantino l'ho conosciuto comunque lì in campagna elettorale, passava di lì, era sempre vestito bene, personalmente sapevo che era un negozio di compra oro, e anche qui mi chiedo: se era un personaggio così, ma cosa gli hanno fatto aprire a fare, visto che dicono che addirittura era implicato in traffico d'armi, sequestri di persone? Ma chi l'ha autorizzato ad aprire un negozio di compra oro? È la contestazione che viene mossa anche al medico, al dottor Scalambra, che è il marito dell'altra consigliera comunale. Allora, persone totalmente a posto, voglio dire, anche un medico stimato, oltretutto. Ma il fatto che fosse un bravo medico non c'entra, diciamo, con le contestazioni che gli vengono mosse. A lui viene contestato il fatto di essere stato, diciamo, un collettore di voti delle cosche, di una sorta, diciamo, di scambi, no? Per favorire il sindaco di Sedriano. Mi credo, il mio sindaco non era molto nelle grazie del PDL, perché molto probabilmente i nostri problemi sono iniziati nel settembre del 2009. In coincidenza di? Noi abbiamo fatto una denuncia di un'escavazione della TAV e noi ci siamo trovati all'interno, lungo la linea TAV di Sedriano, ci siamo trovati un'escavazione di 300 e passa metri cubi di terra che mancavano. Cioè, c'è un lago enorme. Noi abbiamo fatto una denuncia, tant'è vero che lo scorso aprile ci hanno mandato, comunque dopo vari processi, dicendo: guardate, voi avete ragione, c'è stato un illecito, però purtroppo sono decaduti i termini. E all'epoca, mi creda, si è anche mosso qualcuno da Roma per dirci: non fate quella denuncia, lasciate perdere. Mi creda, avevamo avuto fortissime pressioni per non fare niente, però noi siamo andati avanti per la nostra strada. Fortissime pressioni da chi? Da parte sia del PDL che della Lega. Continuare a dire che la mafia al nord non c'è ha favorito la presenza e il dilagare anche delle infiltrazioni mafiose al nord? Io dico che molto probabilmente una certa parte politica, magari una certa responsabilità ce l'ha anche avuta. E potrebbe essere non solo morale ma anche molto concreta la responsabilità di chi ha negato e smentito con ostinazione la presenza delle cosche al nord. Una presenza invece a quanto pare molto ben chiara a chi si preparava a competizioni elettorali. E c'è chi si vanta di non aver dovuto far ricorso a quei voti, cioè ai voti dell''ndrangheta, come ricorda Lucrezia Ricchiuti, ora senatrice PD, ma prima soprattutto attivissima in politica nel comune di Desio. Quando io ho sentito della storia di Zambetti, che aveva pagato, pagava i voti all'Andrangheta, no, per essere eletto in consiglio regionale. Il precedente era che Ponzoni dichiarava che lui, questa volta, l'ultima volta che è stato eletto, non aveva utilizzato i voti dell'Andrangheta. A parte che sono frasi, secondo me, dette senza senso, nel senso che uno non si libera nell'Andrangheta. Nel momento in cui tu vai a chiedere i voti o chiedere dei favori, ti sei legato per sempre a loro. Ma nella Lombardia, provincia di 'Ndrangheta, succede anche che, nonostante la terribile crisi, vadano deserte gare d'appalto per centinaia di migliaia di euro. A ciascuno il suo. Meno di 100 chilometri. Da Desio, cuore della Brianza, le Alpi sono molto vicine e qui, come in altri comuni lombardi, in certe giornate si vedono davvero chiaramente. Ma la neve in Lombardia d'inverno non è solo una cornice lontana, arriva quasi sempre anche sulle case e ogni anno così le città si devono attrezzare per tempo. Rimuovere la neve, insomma, è un lavoro sicuro, facile eppure ben remunerato. Eppure, a Desio, per tre volte quest'anno, le gare d'appalto per pulire le strade in caso di nevicata sono andate deserte. Nessuno si è fatto avanti, nonostante la crisi, nonostante i 200.000 euro di appalto, nonostante le garanzie di guadagno, anche se dovesse splendere il sole per tutto l'inverno. Un episodio simile era successo tempo prima pure a Buccinasco, la Platina del Nord, per dirla, con una ormai celebre intercettazione tra boss di 'Ndrangheta. Perché? Forse perché ci sono stati arresti a Desio in passato proprio per quel settore? Forse perché in questo comune, sede di una delle locali di 'Ndrangheta, le aziende vengono ora minacciate? Il caso, di sicuro, ora è sul tavolo delle forze dell'ordine e pure del prefetto, segnalato dalla nuova amministrazione che per prima cosa, dopo la caduta nel piano della bufera per le indagini sull'Andrangheta, ha fatto un repulisti all'interno degli uffici. E parte da qui Lucrezia Ricchiuti, ora senatrice PD, che a Desio ha fatto della lotta alle infiltrazioni la sua prima battaglia. Ci sono stati degli avvicendamenti anche nella dirigenza, abbiamo assunto un funzionario nuovo ai lavori pubblici. I problemi più grossi per quanto riguarda il comune di Desio erano proprio all'ufficio tecnico. L'ex dirigente dell'ufficio tecnico è sotto processo. Al di là dei politici, una sostituzione negli uffici? Sì, abbiamo fatto una riorganizzazione del personale. Insomma, l'amministrazione di Desio, dal punto di vista soprattutto dell'area tecnica, ha sempre avuto dei punti deboli, cioè era inserita secondo noi in un sistema ben consolidato. Lei più volte ha parlato di un comitato d'affari politico mafioso. Corollari di queste vicende giudiziarie sono anche il fatto che sono andate deserte tre gare d'appalto per un lavoro anche economicamente significativo, per la rimozione della neve. Che cosa è successo? Nel 2012 io e il mio sindaco abbiamo fatto un esposto ai carabinieri perché c'era stato segnalato appunto dal dirigente dell'ufficio tecnico e dal funzionario dei lavori pubblici che probabilmente l'appalto della rimozione neve aveva qualcosa di sospetto. È partita un'indagine e a maggio del 2013 sono state arrestate 7 persone, 3 dipendenti pubblici e 4 imprenditori di diversi comuni. Dei 3 dipendenti pubblici, 2 erano quelli del comune di Desio, responsabile ufficio appalti e un geometra dei lavori pubblici. Il processo si celebrerà a breve. Sono finiti tutti in carcere appunto perché erano stati truccati degli appalti, fra cui l'appalto della rimozione neve che aveva validità biennale. Adesso noi quest'anno dobbiamo rifare l'appalto. È già la terza gara che va deserta, nessuna azienda partecipa. La prima gara l'abbiamo fatta online, non si è presentato nessuno, le altre due, nella prima si sono presentate 31 aziende, abbiamo chiamato perché è una procedura negoziata, quindi siamo noi che chiamiamo le aziende a fare l'offerta. Abbiamo invitato 31 aziende, di queste 31 aziende 7 sono venute a chiedere informazioni, ma nessuno ha presentato un'offerta. Al terzo appalto avevamo chiamato quelle 7 aziende che si erano dimostrate interessate in un qualche modo, nessuna ha risposto all'offerta. Quindi in tempi di crisi nessuna azienda presenta un'offerta per un lavoro da 200.000 euro. Da 200.000 euro con un fermo macchine di 40.000 euro, perché l'appalto fra l'altro della rimozione neve è uno degli appalti più appetibili. Quindi di sicuro un lavoro, diciamo, senza controindicazioni da un punto di vista economico. Ecco, sì. E voi come leggete il fatto che nessuno si presenti? Si può fare più di un'ipotesi. La prima è che ci sia una pressione da parte delle organizzazioni criminali affinché nessuno partecipi alle gare. I mezzi che vengono messi a disposizione sono mezzi che poi servono anche per il movimento terra. Quindi, e ricordiamolo che il movimento terra è uno dei settori in cui, uno dei settori in cui più facilmente, diciamo, ci sono dei subappalti assegnati a ditte vicine ai clan di 'Ndrangheta. Qualcuno dice, ma magari siccome ad Esio è stata fatta questa indagine, sono stati fatti questi arresti, uno potrebbe avere delle remore, ma io non me ne faccio una ragione, perché se mi metto nei panni di un imprenditore onesto, cioè soprattutto in questi periodi in cui, insomma, di vacche magre, di che cosa dovrei aver paura? Qualche segnalazione all'autorità? Ah, abbiamo già fatto. Ai carabinieri l'abbiamo già segnalato e credo che il mio sindaco abbia già anche telefonato al prefetto. Un appalto da 200.000 euro, tre aste deserte e macchinari usati anche per il movimento terra. Tradizionali attività nelle mani della 'Ndrangheta. Racconta questo la storia di Desio. Qui la precedente amministrazione è caduta per decisione sì politica, ma travolta dalle polemiche e dalle inchieste giudiziarie, mentre è stata una commissione d'accesso a proporre e poi il ministro dell'interno a firmare lo scioglimento dell'amministrazione di Sedriano, 11.000 abitanti in provincia di Milano. Qui il sindaco era stato arrestato insieme al padre e al marito di due consigliere comunali, accusati di essere collettori di voti delle cosche, come abbiamo sentito nella prima parte. Spesso al nord questi sono interventi soprattutto di prevenzione, spiega però Anna Canepa, magistrato della Direzione Nazionale Antimafia, che aveva seguito da vicino la storia dello scioglimento di un altro comune settentrionale, Ventimiglia, in Liguria. Erano state rilevate forti criticità nella concessione di appalti a soggetti che mai sono stati peraltro condannati per 'Ndrangheta, perché poi in questi territori la difficoltà di raggiungere provvedimenti definitivi che attestino la presenza delle articolazioni sul territorio è molto complicato e molto difficile, ma tutto il lavoro che era stato fatto aveva evidenziato tutta una serie di forti criticità nella concessione di appalti, nella mancata verifica, soprattutto relativi alla costruzione del porto della cittadina turistica, e di forti condizionamenti o comunque possibili condizionamenti che poi avevano portato di fatto al provvedimento di scioglimento. Introduce subito un tema che è abbastanza, diciamo, ricorrente un po' nelle problematiche antimafia al nord, cioè il fatto che si possa poi arrivare allo scioglimento delle amministrazioni e casomai poi le sentenze successive non arrivano a confermare la presenza di un'articolazione mafiosa su quel territorio. Ecco, questo secondo lei è dovuto a che cosa? Secondo me la difficoltà nasce proprio dal diverso atteggiamento che hanno su territori non tradizionalmente mafiosi le organizzazioni di stampo mafioso. Tutto si può parlare di vera e propria infiltrazione, di un vero e proprio appropriarsi da parte della criminalità organizzata di queste strutture. Quello che invece può evidenziarsi al nord è cercare di comprendere come invece in genere le amministrazioni nel nord, quelle poche che sono state sciolte, di fatto sono sciolte perché sono a rischio di condizionamento, che è un qualche cosa di diverso. Si esaspera nel nord quello che è l'aspetto di prevenzione di questo strumento, che rimane comunque uno strumento amministrativo. Se volessimo un po' trovare una sorta di comune denominatore delle vicende dei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose al nord, questo sicuramente è uno. Ce ne possono essere degli altri secondo lei? Ma questo è il principale, certamente il principale. Ma c'è un altro tema che si impone nelle storie delle indagini sulle mafie al nord. Al di là delle singole responsabilità penali e delle presunte connivenze oggetto dei processi, gli amministratori sanno effettivamente riconoscere gli elementi spia della presenza dei clan? Noi non abbiamo strumenti e noi non lo sappiamo fare, alza le mani Achille Pivetta, già vice sindaco di Sedriano. faccio un piccolo passaggio sempre che c'è su scritto su quella relazione. Al mese di maggio, la famosa Villa Colombo che abbiamo preso, una sera c'è stato un piccolo crollo. I vigili del fuoco in quel momento nella loro relazione ci hanno imposto di mettere un pezzo di muro in sicurezza. Il responsabile dell'ufficio tecnico è arrivato, ha chiamato un'azienda che opera lì in paese, hanno fatto sempre con il segretario comunale tutti i documenti che andavano fatti per fare questo coso di urgenza. Adesso mettiamo sulla relazione che io ho dato a questa azienda questo lavoro e questa azienda in passato ha dato del lavoro in subappalto, non miei, del comune di Sedriano, a delle aziende legate all'Andrangheta. Ma io come faccio a sapere che questo qui, che ha certificato antimafia in regola, nel passato ha dato a queste qui? Cioè, ma io come faccio a saperlo? Mi scusi, Le possibilità esistono, però forse potreste dire voi amministratori di comuni medio-piccoli del nord, noi non siamo in grado di riconoscere le infiltrazioni mafiose? No, noi non siamo in grado, io se l'ammetto, sinceramente non siamo in grado, mi creda. Io come faccio a sapere che chi per essi è allegato a Tizio, Caio, Sanprodio? Il tema della formazione vale al di sopra del Po anche per le forze dell'ordine, come per gli inquirenti. E la senatrice Ricchiuti, membro della Commissione Antimafia, vuole proporlo pure a Palazzo San Macuto, non appena cominceranno a lavorare. Una questione questa al centro pure di un attacco duro dagli inquirenti di provincia in Lombardia contro il capo della direzione distrettuale antimafia milanese, Ilda Boccassini, che aveva detto che loro non capiscono nulla. Un tema che anche a Roma, alla Procura Nazionale Antimafia, seguono da molto vicino, come conferma Anna Canepa. Il problema della formazione è un problema che riguarda tutti, riguarda le forze dell'ordine, riguarda la magistratura. Non a caso la necessità di specializzazione e una maggiore sensibilità è proprio quello che ha portato, oltre il coordinamento, che ha portato alla formazione, alla creazione delle direzioni distrettuali antimafia, le quali peraltro non possono prescindere dal lavoro degli uffici sul territorio. E andando un po' nello specifico della polemica che c'era stata anche su Milano, tra il procuratore Ilda Boccassini e dei PM della provincia sulla loro capacità, guardi, o meno, diciamo, secondo me c'è stato un fraintendimento e anche una voglia di fare polemica, perché le indagini vengono fatte dalle direzioni distrettuali antimafia, ma i processi poi, quando si devono celebrare, giustamente vengono celebrati sulle strutture del territorio, quindi si pongono una serie di problemi anche con riferimento alla composizione dei collegi. Quello è un problema, diciamo, organizzativo, che ha a che fare con i numeri quando ci sono questi nello grandi. Nello stesso tempo il fatto di celebrare sul territorio, un dibattimento che riguarda un'organizzazione che quel territorio ha, come dire, oppresso, ha anche un suo significato, perché si fa capire alla cittadinanza che lo Stato ha reagito. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.